Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Disabili e indignati, insieme perché ci si indigna anche per le condizioni in cui vivono le famiglie con persone diversamente abili. Entrando in questa casa è subito chiaro che le tasse non sono uguali per tutti. Ci sono italiani che più di altri ne subiscono gli effetti. Siamo in tasse ancora di più la pressione fiscale e sarebbe per me, per lui, la morte civile. Cioè non c'è assistenza, non c'è sostegno alle famiglie, siamo lasciati in solitudine. Io sono anche un insegnante e devo dire che le strutture, in generale i servizi e la scuola, ancora non hanno capito che la diversità è una ricchezza. Immagino che questa mattina darò qualche problema all'ascoltatore che aveva chiamato giorni fa, quando facemmo una trasmissione gloriosa sulle Paralimpiadi, dicendo: Nicoletti, basta, hai rotto le palle con questi handicappati. E invece guardo un po', questa mattina ci torno un po'. Ma ci torno perché vorrei far riflettere la maggior parte del pubblico, che ha la grande fortuna di non essere lambito direttamente da questo problema, sul fatto che probabilmente non occorre essere particolarmente votati a comprendere la sofferenza altrui. Ma questo è un problema che lentamente si sta riverberando, come se fosse un diapason, anche sulle famiglie, sulle persone, sulla serenità, sulla compattezza, sul grado di felicità anche delle persone che non hanno assolutamente nessuna esperienza diretta con la disabilità. Siamo in un momento di crisi. Indubbiamente a tutti noi viene chiesto di stringere la cinghia, e chi può la stringe, chi più chi meno, in maniera giusta, in maniera probabilmente non equa, ma tutti sentiamo il peso della crisi. Ci sono persone che sentono molto di più il peso della crisi, sono persone per cui quello che a noi viene tagliato riduce i nostri consumi voluttuari, la nostra capacità e possibilità di muoverci in maniera agevole per andare casa lavoro, casa vacanze, casa, bar il pomeriggio, in qualunque altro posto, diventa semplicemente o molto drammaticamente una limitazione a funzioni vitali, al muoversi tout court, a riuscire a spostarsi, quello che per noi significa rinunciare a qualcosa comunque di a cui avevamo dato per scontato, che avremmo avuto per tutta la vita. Per altre persone significa rinunciare a qualcosa che sia fondamentale, vitale per la loro vita. Voi potrete continuare a dire: vabbè, oh, sentite, ci dispiace, non siamo Madre Teresa di Calcutta, tanta commiserazione, tanta riconoscenza, però non possiamo farci nulla, dobbiamo pensare alle nostre cose. Beh, pensate che invece il problema di queste persone pian piano diventerà anche un problema vostro, perché sarà un problema di famiglie che non riusciranno più a gestire una persona dei loro familiari, del loro gruppo familiare, con dei problemi, quindi si rivolgeranno a altre persone, quindi non potranno più lavorare, quindi creeranno delle situazioni di disagio sociale generalizzato. Ora non vogliamo gettare allarmi, noi questa mattina però sappiamo che di fronte a Montecitorio ci saranno delle persone portatrici in prima persona di un problema superiore rispetto a quello della media dei loro cittadini, che cercheranno di richiamare l'attenzione su alcuni punti, in sintesi poi saranno loro ad esprimerci, diranno: beh, guardate che ci siamo anche noi, chiediamo qualcosa di molto preciso, di molto ben definito, qualcosa che non riguarda soltanto la nostra singolare e personale particolare condizione, ma riguarda un po' tutti gli italiani. Per questa ragione noi ci colleghiamo questa mattina proprio con Piazza Montecitorio e abbiamo al telefono Michele Colangelo. Michele Colangelo, buongiorno. Buongiorno. Michele Colangelo è presidente del comitato 14 settembre. Michele Colangelo è un signore, lo posso dire perché siamo alla radio e nessuno la vede, Colangelo, un signore sulla sedia a rotelle, quindi è un signore che ha un suo personale problema di muoversi rispetto alla maggior parte delle persone. È il promotore, il presidente del comitato 14 settembre, oggi proprio il 14 settembre, e questa mattina come mai, Colangelo, lei con la sua carrozzella si è spostato davanti a Montecitorio? Allora, buongiorno intanto e grazie per questa possibilità. Noi siamo qui anche sotto una pioggia battente per ribadire il diritto alla sopravvivenza dei disabili e delle loro famiglie, che con i provvedimenti che il governo sta mettendo in atto dal 2013 rischiano decine e decine di migliaia di persone di tornare in stato di povertà, e questo pericolo noi lo vogliamo scongiurare con ogni mezzo, perché faremo un salto indietro di più di 50 anni di storia e di conquiste che abbiamo fatto in questi anni e che rischiano di svanire in pochi mesi. Colangelo, volevo soltanto Innanzitutto pregare gli ascoltatori di partecipare per quanto possono, per quanto vogliono, anche in maniera critica se lo ritengono opportuno a questo programma, chiamando l'800240024. Oggi noi abbiamo anche chiesto comunque un fronte istituzionale per non avere soltanto una voce. Ci siamo rivolti appunto alla segreteria di Maria Cecilia Guerra, che è sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Monti. Ci ha detto che preferivano prima sentire le persone e poi magari esporre il loro punto di vista. Questa mattina ha il senso questa trasmissione semplicemente di esporre il problema. Noi faremo una sorta di agenda dal punto di vista di chi soffre il problema, poi in una seconda trasmissione più avanti chiederemo anche alle istituzioni di darci qualche risposta. Colangelo, vediamo di sintetizzare. Parlando di problemi concreti, reali, del quotidiano di una persona disabile, della sua famiglia, di fronte a quelli che noi consideriamo dei tagli durissimi, sanguinosi, fastidiosissimi, ma in particolare, per chi ha questo tipo di problema, cosa corrisponde questo? Allora, ecco, che cosa accade? Che oggi noi abbiamo che il bilancio che arriva ai comuni, alle regioni, agli enti locali, è un bilancio generale. Ora, in regime di tagli, è evidente che la ricaduta sul bilancio è per tutte le voci. Noi chiediamo che si istituisca quello che noi definiamo il bilancio sociale, cioè quella protezione con una spesa prefissata sulla base del rilevamento dei bisogni, che impedisca ai comuni e allo stesso governo in prima istanza, valutate le situazioni, di poter tagliare in un settore che altrimenti muore. Una cosa che si sente dire, Colangelo, oggi molto: sai, sono tagli orizzontali, non guardano in faccia nessuno. È questo il problema? Esatto. Noi però abbiamo la necessità di essere guardati in faccia, perché siamo quella parte del paese che non ha alternative, non all'assistenzialismo, come viene detto dal governo, ma ad essere assistiti, ad essere aiutati in quella vita quotidiana che già è durissima. E non abbiamo altre opportunità se non quella, quindi o lo Stato carica su di sé le persone deboli oppure se ne deve disfare, non c'è alternativa. Vogliamo calarlo proprio nel quotidiano, in problemi percepibili anche da chi non necessariamente ha un'esperienza diretta. Quando parlo di disabilità parlo di un universo vastissimo, ci sono disabilità fisiche, reali, concrete, visibili, altre disabilità dell'area psichica e psichiatrica, probabilmente meno visibili ma altrettanto gravi. Quindi non voglio fare una distinzione di più o meno gravi. Io parlo di persone che non hanno autosufficienza, che esistono però, ci sono, a cui negli ultimi anni il processo di civilizzazione ha detto: guarda che tu puoi avere una vita sociale, puoi svolgere una professione, puoi integrarti con gli altri, non è più una persona destinata ad essere nascosta perché toccata da un malefico segno divino, perché probabilmente c'era una colpa nella sua famiglia o chi l'ha generata. Sistemi arcaici. Bene, le persone con disabilità si sono aperte alla società. Ma adesso cosa accade? Ecco, adesso accade che in realtà l'assistenza e tutto quel patrimonio di tanti anni di integrazione, ieri si è parlato della vicenda scolastica, oggi più in generale dell'assistenza alla persona, non è un diritto, cioè in questo paese è regolato in ragione delle risorse disponibili. Se vi sono fondi si può assistere, se non vi sono fondi no, perché è una facoltà che i comuni possono avere di utilizzare o meno. Allora, ma è vero, ci sono comuni in Italia che hanno fatto circolare dicendo ai disabili del loro comune: da oggi non possiamo più fare niente per voi, ci dispiace, sì, non abbiamo più soldi. Sì, ci sono paesi, allora. Mentre una realtà come Roma, quindi come la nostra dove viviamo, è una realtà che ha, come dire, un impatto a livello pubblico molto elevato. Beh, oddio, a Roma ieri ci sono state centinaia di bambini disabili che non sono andati a scuola perché non c'erano i mezzi. Sì, però questo ha un impatto. Mentre ci sono tanti paesini piccoli del sud Italia, di situazioni diciamo più lontane, dove queste cose avvengono, le persone sono chiuse in casa, le famiglie disperate nella loro solitudine e non avranno mai una ribalta. Noi siamo qui per tutto questo. Fermiamoci solo un secondo, due ascoltatori in cui anche Colangelo potrà comunque dare il suo contributo. Daniele, buongiorno. Buongiorno, io sono un assistente educativo culturale per una cooperativa sociale a Roma. Io confermo quello che è trapelato ieri. Molti bambini sono rimasti a casa perché noi assistenti educativi culturali Abbiamo ricevuto un taglio del 50% sul monte ore e quindi ci è impossibile assistere all'inserimento dei bambini disabili. Le posso fare una domanda però, Michele? Sì, Daniele, secondo lei i tagli che sono indiscriminati e non guardano in faccia nessuno, come oggi ci ha spiegato e ci ha detto, non si può guardare in faccia nessuno, sono tagli orizzontali, dove coglio e via dicendo. Questo è una parte del problema. Un'altra parte del problema è sulla razionale amministrazione di queste forze. Persone come lei, secondo me, sono state sempre giustamente divise, equamente divise, razionalmente immaginate e pensate, o c'è stata una sorta di perché questa potrebbe essere la risposta che viene data, sono stati usati male, chi ne aveva troppi, chi ne aveva pochi, non c'erano c'è stato, diciamo, una larghezza esagerata in questa disposizione, quindi oggi dobbiamo tagliare. E qual è il suo punto di vista, dalla sua esperienza? Sì, lei ha perfettamente ragione. Secondo me anche la politica occupazionale delle cooperative sociali è stata assolutamente sbagliata. Molte volte le cooperative assumevano collaboratori anche quando non ne avevano bisogno, oppure per vincere per forza un numero maggiore di bandi si cercava di andare a prendere tutti i servizi a scapito della qualità. Lo sa perché lo dico, Daniele? Conosco bene il problema, ho un figlio disabile, quindi l'ho sempre detto e non mi nascondo, quindi lo so bene. Vedo che anche in questo campo, parimenti alla richiesta super lecita e sacrosanta di non procedere con tagli indiscriminati, bisognerebbe anche guardarsi la coscienza e vedere come sono stati usati questi soldi, perché la politica in questo molte volte ha affondato le sue mani. La spartizione fra laici e confessionali nel grande campo dell'assistenzialismo fa sì che noi abbiamo operatori molte volte non qualificati che guadagnano pochissimo come lei, ma le cooperative e l'associazione alle spalle li gestiscono, si fanno dei bei soldini anche sulle nostre spalle. Fermi un attimo, Claudio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io ho un caso vicino casa che gli hanno levato il sostegno familiare perché il dottore non ha creduto a sto ragazzo che c'ha un handicap infantile, quindi è rimasto bambino. E, diciamo, ha un ritardo di tipo mentale. È di mentale. Cioè il dottore non ha creduto e dice questo lo fa apposta. Lo fa apposta, ci sono strumenti clinici per accertare. Ma lui sono tant'anni, ha 60 anni questo ragazzo. Sì. Quindi il medico non ha trovato una diagnosi. No, momentaneamente l'hanno sospeso il costo. Allora, adesso non ho strumenti per giudicare, però questo potrebbe essere indicativo di un tipo di problema. Colangelo, su queste due telefonate, vorrei partire però dalla seconda, sull'abbassamento del livello di attenzione rispetto alla gravità di un handicap. Esiste anche questo problema, che si abbassi il reddito, vabbè, possiamo avere meno soldi, quindi chi oggi era handicappato 100 diventa 80, ecco, una cosa del genere. Guardi, c'è questo aspetto, perché oramai siamo entrati tutti in un'ottica, siamo diventati tutti revisori dei conti in questo paese, no? E quindi chiaramente si tende ad abbassare tutto. Io però, se mi permette, tornando alla prima telefonata, alle volte ci si nasconde, io lo dicevo anche in conferenza stampa, il finto cieco che lo trovano oggi al videopoker, domani di là. Alle volte dietro la vicenda dei falsi invalidi, dietro la vicenda di risorse mal distribuite, che pure c'è, noi non ci nascondiamo, e Roma sta preparando una riforma dove in maniera scientifica si organizza il rilevamento del bisogno con criteri trasparenti, pubblici. Che mi sembra fondamentale per sedersi a un tavolo e discutere questo, no? Assolutamente, noi ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, le associazioni disabili hanno detto di sì, come hanno detto di sì alla compartecipazione. Abbiamo detto di sì, noi non vogliamo privilegi. Ci stanno lavorando le consulte in tutti i municipi. So che è l'agenda questo. Esatto, quello che invece mi preme sottolineare, perché mi rivolgo agli ascoltatori, poi dovremmo andare dal ministro, dal sottosegretario Guerra che ci attende. Finché possiamo parliamo con lei, poi magari la richiamiamo più tardi per sapere com'è andata. E il problema qual è, Gianluca? Il problema è questo. In realtà spesso dietro campagne sulle falsità o sulle non eque distribuzioni si nasconde poi la giustificazione per asfaltare tutto. Allora, un conto è riequilibrare il sistema, un conto è eliminare sperperi e ingiustizie, un conto è dare a chi non ha avuto la possibilità, e su questo le associazioni sono ferme e pronte naturalmente a qualsiasi forma di collaborazione. Ma rifugiarsi dietro questo è sbagliato. Agli ascoltatori voglio dire, a chi è in ascolto oggi, perché serve oggi essere solidali con tutti? Perché vedete, il problema è uno solo. Se uno Stato, se un Paese non crede più che i deboli di questo Paese vadano aiutati, non è una questione solo per chi oggi vive il problema, ma è un problema che prima o poi investirà tutti, perché nessuno può avere la garanzia. Quindi io credo che qualsiasi cittadino, anzi soprattutto quelli che non hanno problemi, io li invito a riflettere. Se oggi vogliono uno Stato che aiuti i deboli del Paese a farcela e a poter stare con gli altri, o se pensano che oramai lo Stato debba preoccuparsi esclusivamente di chi è in grado da solo con le proprie risorse di difendersi. Ma entriamo in un'altra ottica, in un'altra logica, che noi speriamo che tanti italiani vogliano rifiutare e quindi capire l'importanza del stare al nostro fianco, senza privilegi, senza aiuti particolari, ma con la consapevolezza. Guardate, ci sono famiglie che si stanno distruggendo nella loro solitudine, perché oggi assistere un disabile grave da soli in casa, senza aiuti, senza uno Stato che ti dà una mano, fa dividere le famiglie, fa vivere condizioni drammatiche. Forse è una riflessione che andrebbe avviata, perché si parla tanto di difendere la famiglia, di difendere le cose, e poi in realtà si sta andando verso una società dove il più forte vince e il più debole soccombe. Sì, questo è giusto, Olangio, dirlo a quanti ogni giorno si stracciano le vesti di fronte alle sollecitazioni, alla laicizzazione, al pensiero relativista, alle tentazioni. Cioè, le famiglie non si distruggono soltanto per le tentazioni di fuga, si distruggono anche perché c'è un problema che rimbalza tra le persone della famiglia, alla fine ognuno colpevolizza gli altri, quindi certo, si esplode. Io ho fatto quella premessa proprio per trasparenza e per rettitudine ideologica. È giusto dire che oggi esiste una smodata pubblicizzazione del fenomeno falso invalido, del fenomeno vessazione e malversazione nel campo dell'assistenza? È giusto, ma è altrettanto giusto dire che comunque va anche fatto ordine in questo settore. Sentiamo Piero. Piero ha un problema personale. Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io premetto che ho 40 anni, praticamente in 36 anni di vita non ho mai saputo neanche dove fossero gli avvocati. Mi è nato un bambino 4 anni fa, praticamente io ho fatto il viottolo, da 4 anni a questa parte ho fatto il viottolo dall'avvocato, perché dalla cosa più stupida, all'essere ammesso a scuola, fino a ore di sostegno e tutto l'ambaradam, insomma, si porta dietro questo problema, praticamente io mi tocca ogni volta andare dall'avvocato. Questa è una prassi, Piero, che tutti noi ben conosciamo. Ci viene fatto capire dopo un po' che di fronte all'amministrazione, a cui chiediamo qualcosa che rientra nei nostri diritti, che naturalmente spesso dice no di maniera d'impatto, perché è molto più semplice da gestire una risposta negativa che una positiva, dicono ma tu vai dall'avvocato perché ormai se non arriva una lettera dell'avvocato non si muove niente. Questo vale per il permesso disabile, vale per qualunque cosa. Bene, ecco, e difatti anche quest'anno ci avevano avvertito preventivamente in una scuola pubblica del nostro comune che praticamente le ore di sostegno erano state dimezzate perché non avevano fondi, e quindi io ho minacciato il fatto di andare da un avvocato. E sono arrivate le ore. No, abbiamo preso, loro non ci credevano, abbiamo preso l'appuntamento con l'avvocato per il 17 alle 17 di sera. Praticamente ci hanno chiamato ieri dicendoci no, ci siamo sbagliati, dice le ore sono mezz'ora meno dell'anno scorso, ma ci sono tutte. Allora Piero, questo siccome non è un caso isolato, il suo è un caso generale, dimostra che comunque c'è un'organizzazione dietro che andrebbe rivista. Non può essere un principio di discriminazione legato al caso, legato a chi strilla di più, chi ha più avvocati, perché c'è anche chi l'avvocato non se lo può pagare. Chiara Ludovisi, buongiorno. Buongiorno. Chiara Dovisa è giornalista di superabile.it, che è il grande portale italiano dedicato alla disabilità. Vorrei che tu mi aiutassi, in quanto osservatrice e conoscitrice tecnica del problema, a mettere un po' di ordine fra le varie parti. Oggi sono delle persone che stanno richiamando la loro attenzione alle istituzioni di fronte all'idea che il taglio indiscriminato deve tener conto che non siamo tutti uguali e quindi non su tutti allo stesso peso, ed altresì esiste anche una possibilità di rimettere ordine quello che è il confuso, disarticolato, a volte pieno di perplessità, apparato, è brutta la parola, ma è bene dire le cose come stanno, di assistenza delle persone disabili. Sì, dunque io direi che la grande novità di questi ultimi anni forse è la presa di coscienza da parte delle famiglie di essere un welfare sociale, cioè in un momento di crisi economica, in un momento in cui lo Stato sempre meno offre a chi ha più bisogno, le famiglie si riscoprono in questa loro funzione e iniziano a rivendicarla. Quindi questo per presentare quello che sta accadendo oggi, che non è un appuntamento isolato, ma è ormai diciamo un appuntamento periodico, perché capita sempre più spesso, direi almeno da un anno e mezzo, di trovare le associazioni dei disabili in piazza, le famiglie, i caregivers, a reclamare i loro diritti e ad avanzare anche delle proposte concrete. Allora Chiara, senti, facciamo così, hai fatto la tua promessa, hai portato il punto di novità. In un paese in cui la famiglia viene spesso impugnata, invocata come entità astratta, come punto d'appoggio, come luogo dei valori, non sa mai quali valori, nel campo della disabilità le famiglie si stanno rappresentando come realtà attiva, perché non possono più aspettare qualcuno si occupi di loro. Gianna Spinuso, insegnante precaria, vive da più di 30 anni con suo marito Roberto. Lei da sempre su una sedia a rotelle, il compagno costretto su un divano per una tetraparesi spastica. Se le tasse continuano a strangolarci, se vogliamo fare l'esempio nostro, se aumentassero ancora di più la pressione fiscale, o se ci tagliassero buona parte dell'assistenza personale che per noi è vitale, io sarei costretta, per esempio, mio marito a ricorrere ad una struttura residenziale ospedaliera, e sarebbe per me, per lui, la morte civile, e per me sarebbe 800 0024 stiamo sentendo una storia presa da Sky TG24, ma ci sono tante. Però per principio non credo che sia più l'approccio giusto di chi informa su questo problema portare soltanto grandi storie strappalacrime. Ce ne può essere, la televisione italiana ci si è alimentata per anni, molte volte di fronte al caso drammatico i giornali c'entrano, ma è il quotidiano, è il tristissimo quotidiano, le persone che guardano fuori dalla finestra non hanno nessun altro orizzonte. I familiari che non hanno più una loro vita sociale, una loro vita affettiva. Perché? Perché un legame di affetto profondo, un senso di amore ti lega a quella persona, ma quella persona è l'oggetto del tuo amore, ma è anche il tuo aguzzino, è anche la persona che ti impedisce di muoverti. Questo perché? Perché molte volte sarebbe molto semplice organizzare bene l'attenzione pubblica dello Stato nei confronti di questi problemi, ma è discontinuo, a volte si dà troppo, a volte si dà poco, a volte si finge che non ci sia il problema. Mi sono interrotto, stavo parlando con Chiara Ludovisi, giornalista di Superabile, che è esperta di questi problemi, li tratta professionalmente da anni, anche perché so che fra un po' non posso più approfittare del suo tempo. Riprendiamo il punto, Chiara, tu avevi detto che la grande novità è che le famiglie stanno cominciando a organizzarsi come una loro realtà, vanno per gruppi, vanno per livello di attenzione, vanno per problema condiviso, comunque le famiglie cominciano a esistere in questo campo. Sì, cominciano a esistere, cominciano a farsi sentire, il web in questo è uno strumento essenziale, soprattutto quando pensiamo che si tratta di famiglie spesso costrette a casa, quindi con difficoltà di muoversi e di ritrovarsi, di riunirsi in uno spazio fisico. Quindi la rete si popola di realtà di questo tipo, gruppi Facebook, associazioni che vivono su internet, eccetera. E in prima linea mi pare di vedere, soprattutto in quest'ultimo periodo, i disabili gravi e gravissimi. Pensiamo al comitato 16 novembre che in un certo senso forse ha fatto da apripista a questo movimento, perché è sceso in piazza portando visibilmente persone con gravi disabilità, persone attaccate a delle macchine, persone in barella, e reclamando a gran voce i propri diritti è riuscito ad ottenere un risultato concreto che poi ha suscitato anche polemiche, ma comunque è riuscito a ottenere lo stanziamento di questi 100 milioni per la SLA. Ecco, da quel momento in poi forse la voce delle persone disabili e delle loro associazioni si è alzata, mettendo avanti le loro istanze, che sono chiaramente molto pesanti. Però Chiara, diciamolo francamente, ma chi ha l'organizzazione alle spalle più forte, più potente, con una maggiore tradizione storica di intervento, è più salvaguardato rispetto a chi magari ha una patologia riconosciuta da poco tempo, certo, o poco conosciuta, certo, o abbastanza rara, si trova più solo? Sì, questo senz'altro. Infatti c'è chi parla di guerra tra poveri, perché inevitabilmente chi ha alle spalle una forte organizzazione oppure una patologia diffusa, conclamata, conosciuta, ma l'universo della disabilità è costellato invece di tante patologie a cui dopo anni le famiglie non riescono ancora a dare un nome, verso la sindrome di Rett, ma è soltanto la prima che mi viene in mente. Ci sono veramente molte famiglie che vivono il dramma di una diagnosi che non arriva e che quindi è ancora, vivono ancora maggiormente la difficoltà di vedersi riconosciuti i propri diritti. E volendo nominare soltanto alcune delle rivendicazioni che in questo momento sono prevalentemente di carattere economico, ma sono anche di carattere culturale, perché c'è forte anche la richiesta proprio di un riconoscimento del lavoro che la famiglia svolge di caregiver. Ora ripenso anche alla storia che introduceva questa puntata, le famiglie che cercano di evitare il ricovero in una struttura assistenziale e in questo modo fanno anche risparmiare dei soldi allo Stato, cominciano a essere consapevoli di questo ruolo che svolgono, però in questo ruolo che svolgono vogliono essere sostenute, innanzitutto dal punto di vista economico, appunto, perciò in questo momento... Sì, diciamo, sono molte famiglie che dicono le risorse che comunque lo Stato spende in affidarci delle strutture che si occupano di noi, girateci da noi che preferiamo sceglierci noi gli operatori o addirittura pensare noi alla formazione delle persone, certo, che si devono occupare di queste patologie. Con notevole risparmio anche per lo Stato, perché il ricovero in un RSA costerebbe molto di più piuttosto che il finanziamento di un'assistenza domiciliare. Però ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, per molto tempo, per troppo tempo, anche la cura delle persone più deboli e più indifese è stato un grande affare, quindi se ne prendevano tanti e quindi si assumevano tante persone e poi alla fine i soldi venivano spesi e il servizio non era adeguato a quelle che erano le esigenze. E ti ringrazio Chiara, ti lascio perché tu questa mattina hai un problema personale, hai un bambino che stai avviando alla scuola, mi sembra, qualcosa del genere, quindi non ti voglio portare via altro tempo. E sento Franca Biondelli, buongiorno. Buongiorno. Franca Biondelli è una senatrice, è segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, senatrice PD, ma non mi interessa molto quale sia il suo partito. Non la chiamo in quanto rappresentante istituzionale, ma semplicemente perché è una persona che si è sempre fatta promotrice di varie interrogazioni parlamentari riguardo a questi problemi. Come la vede, senatrice Biondelli, la giornata di questa mattina? Come vede le due parti che si incontreranno? Esiste una possibilità di conciliazione, di comune intenti? O lei che sta dentro proprio le mura del palazzo vede che l'ultimo dei problemi in questo momento è quello dei disabili? Ecco, allora, guardi, io spero veramente che questo incontro sia veramente proficuo, perché ieri io ho accennato, e non solo accennato, ho parlato con il Ministro della Sanità ricordando i disagi che ci sono per queste famiglie delle persone più fragili e quindi un'attenzione particolare. E che impressione le ha fatto di essere... Ecco, il ministro dice sì, però volevo ricordarti, ma giustamente, perché insomma non bisogna poi diciamo buttare tutto nel fosso, che appunto con la spending review, che è stata comunque un qualcosa di pesante per le famiglie, comunque per gli italiani, che all'articolo 23 appunto della spending review hanno stanziato questi 700 milioni di euro che andavano a intervenire sì sul tema dei malati di SLA, ma anche ad altre malattie invalidanti, quindi per non creare appunto una disparità nei confronti anche dei malati gravi e non autosufficienti. Non trova le senatrici che al di là degli interventi particolari su particolari patologie, ecco, ci sia necessario rifare un punto generale sul grado di attenzione? Ecco, bisogna veramente che io ho voluto sottolineare al ministro che comunque bisogna veramente attivarsi poi a controlli anche con le regioni e comunque aiutare, per esempio qualche associazione mi ha fatto notare che ci potrebbe essere questo fondo sociale che i comuni potrebbero avere per poter dare alle famiglie non una risposta sanitaria ma una risposta proprio, una risposta alla cura, una risposta proprio alle famiglie, no? Che veramente spendono più di 2.000-2.500 euro per curare i propri malati. Quindi la mia battaglia in Parlamento, in Senato, qual è? Va oltre l'appartenenza del partito, come giustamente lei dice, a me interessa e non interessa, va a coinvolgere sempre più parlamentari ed essere più uniti anche tutte le forze politiche, perché non è un bel momento per la politica ha bisogno di occuparsi soprattutto delle persone più fragili, poi va bene, ci occuperemo anche di categorie che però riescono da soli a portare a casa il risultato. Mentre ma qual è, posso fare una domanda molto, molto crudele? Sì. Visto che la politica è normalmente interessata comunque a coltivarsi un bacino di persone che alimentino il consenso per cui alcune persone occupano alcuni posti, com'è non c'è questa attenzione nei confronti delle disabilità? Stiamo parlando di decine di migliaia di famiglie interessate. Il politico si facesse portavoce delle loro istanze, avrebbe un consenso, ma molto più che andare in giro a bazzicare parrocchie o bazzicare feste dell'Unità. Guardi, lei sfonda una porta aperta. Io, come magari lei sicuramente è un bravissimo conduttore giornalista, si sarà informato, è la prima legislatura e sto cercando proprio per anche una mia situazione familiare, ma sicuramente non solo per quello, perché l'avrei fatto comunque, ma capisco queste persone e vorrei veramente che la politica, e sto coinvolgendo altri parlamentari, hanno fatto tantissimo, molto più di me così, però vorrei che forse che questa fosse una priorità, perché quando noi partiamo con una base nel sociale, una serenità in queste famiglie, soprattutto in un momento di crisi, perché queste famiglie che perdono anche il lavoro, i loro familiari, ancora di più hanno bisogno di chi perde il lavoro ma magari non ha un disabile grave in casa, ancora di più. E allora sto cercando di lottare, ma assieme anche ad altri parlamentari del PD, del PDL, di altri partiti, non ne faccio una questione politica, di provare a porre l'attenzione. Le associazioni che scendono in campo sono dei familiari, sono dei malati, sono persone che chiedono aiuto e a volte cambia veramente la loro vita con poche centinaia di euro a volte al mese. Per loro può essere importante, ce l'hanno detto in queste riunioni, in questa presentazione di associazioni, che è importantissimo. Io la signora, sentivo prima, parlava della sindrome di Rett, che è una patologia veramente progressiva che colpisce soprattutto i bambini e in modo particolare le bambine. Ho presentato una mozione e cerco di parlare con i familiari per poter portare all'attenzione queste problematiche e chiedo infatti sempre alle associazioni: aiutatemi, non scontratevi, aiutatemi a capire e aiutatemi ad andare avanti insieme al Parlamento, naturalmente. Io spero che diciamo il suo punto di vista, la sua sensibilità sia condivisa anche da qualche suo collega. Se solo capissero i politici che vanno in giro per adesso in questo momento in Italia con i camper, vanno a far crociera, seconda ognuno, che in realtà questo è un bacino di consenso importante, non voglio, ma io sono anche molto cinico, conoscendo il problema e vivendolo, e tutti sarebbero disposti comunque, al di là di ogni ideologia, di ogni punto di vista, a dare fiducia, a dare consenso al politico che si occupasse concretamente, sinceramente, materialmente anche del loro problema. Paola, buongiorno. Premetto che sono la mamma di un ragazzo lievemente disabile che ormai, adesso, anche tenuto conto della mia età, il ragazzo, i suoi problemi li abbiamo parzialmente risolti, eccetera. E che disabilità ha il suo ragazzo? Un leggero ritardo mentale, ecco, un ritardo mentale. Ma io dico che vorrei, diciamo, dare un pochettino controcorrente in tutte le cose che ho sentito. Perché a volte queste persone, e io sono stata aiutata nella cura, nell'aiuto a questo ragazzo, ma a volte ci sono dei casi, specialmente nel mondo scolastico, che sono talmente gravi, talmente gravi, talmente gravi, che nella scuola normale, chiamiamola normale, diciamo le cose come stanno, non si riesce neanche mettendo tanti di quei soldi, tanti di quegli insegnanti di Ma faccio un esempio che conosce lei. Allora, l'esempio che conosco io è l'altro mio figlio, secondo, che non aveva questi problemi, era in classe con un ragazzino all'elementare con un bambino autistico grave. Praticamente questo bambino in classe picchiava la maestra, vabbè, il bambino faceva l'autista, il bambino autistico faceva il fatto suo. Questo bambino ha fatto 5 anni in corridoio, dalla porta della classe di mio figlio al gabinetto e ritorno. Paola, le dico, non mi piace chiamare, io ho un figlio autistico grave che passa molte volte le sue giornate nel corridoio. Sono prima a dirle che è sbagliato il sistema, in nome di un'integrazione basata su un principio più ideologico che tecnicamente accertato, molte volte ragazzi con handicap che potrebbero avere una vita scolastica molto adeguata alle loro esigenze vengono messi in una classe di altri ragazzi che nella migliore delle ipotesi possono tollerarli e sopportarli. Arriva un punto in cui per il ragazzo con handicap non è più proficuo stare in quella classe. Occorrerebbe usare un termine che fa molta paura, che è una scuola specializzata per i ragazzi con handicap, in cui c'è l'integrazione ma in senso contrario, in cui le persone vanno perché lì si fanno delle attività talmente fantastiche e meravigliose che a tutti piace andarci. È vero, molte volte si spendono tanti soldi in insegnanti di sostegno, in accompagnatori, per tenere un ragazzo parcheggiato in un corridoio, e non ha nessun senso. Se dessero quei soldi a chi sa e chi ha tecnica per assistere questi ragazzi, ci sarebbe un altro un vantaggio molto più grande. Quindi grazie comunque della sua testimonianza. Stefania. Sì, buongiorno. Allora, mio figlio è diventato disabile a 22 anni per un incidente, è 100% disabile con l'accompagnamento continuo. Ecco, diciamolo, questo che tutti pensano ci si nasce soltanto. Esatto. Può capitare a chiunque. Anzi, mi scusi, mi fa complimenti perché è veramente una persona eccezionale e va messo dei grossi fari su questi problemi. E cosa ha fatto? E quindi appunto, aveva 22 anni, quindi lui ora ha un danno cerebellare e ha problemi di equilibrio. Il problema è che tutti pensano che la disabilità, il disabile grave debba essere su una seggiola a rotelle. Certo. Io non gli sto a parlare delle difficoltà che abbiamo a andare a prendere un caffè. Io ho scritto anche a Rossi, io sono fiorentina, ho scritto anche a Rossi, le ho scritto, invece spende tanti soldi, venite a fare un grande fratello in una casa dei disabili, perché chi non li vive, non ascolta i problemi reali, non può capire che cosa si passa. E questa è una banalità, non è una banalità, lei dice una cosa giusta, lei dice esistono dei livelli di difficoltà, persone che hanno bisogno di assistenza H24 comunque, che a vederli sono persone fisicamente perfette, e anche quello è un problema. Salvatore è caduto? Allora sentiamo Eleonora Camilli da Piazza Montecitorio, giornalista di Redattore Sociale, che sta seguendo l'evento. Puoi aggiornarci su quello che sta accadendo lì? Sì, buongiorno. In questo momento è appena arrivato il sottosegretario al Ministero delle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra, che ha deciso di incontrare qui in piazza il comitato 14 settembre. Ora Michele Colangelo, che è presidente del comitato, sta illustrando i motivi di questa protesta, in particolare il fatto che le persone disabili, in particolare quelle che hanno gravi difficoltà, pagano già ampiamente la crisi. Sta facendo degli esempi molto concreti, per esempio l'aumento della benzina e la difficoltà per chi ha difficoltà motorie di spostarsi con i mezzi pubblici, e per far riflettere sulla questione dell'ISE, che è il punto, diciamo, principale e anche di maggiore competenza del sottosegretario. Ecco, diciamo, questo è il punto più dolente. Se entra, sì, esatto, il parametro ISE nella valutazione del grado di difficoltà, si fanno dei passi indietro. Dice, se il disabile lavora, ha una sua professione e tutto, non è detto che per questo deve avere un taglio sull'assistenza. Dice, abbiamo passato anni di civiltà per dire che devi essere integrato, di lavorare, di essere utile alla società, e adesso ti tolgo qualcosa solo perché tu lavori. Questa è la sintesi. Esatto, esattamente questo. Stanno spiegando di come sia fondamentale l'indennità per una persona disabile, perché appunto non ha scelta. Hanno fatto degli esempi molto concreti, anche il fare la spesa con l'aumento dei prezzi. Una persona disabile con difficoltà motorie non può scegliere il supermercato in cui andare. Ecco, e questa quindi, è una cosa, diciamo, anche da esattamente. Molte volte non si valuta, ma sono le cose semplicissime. Una persona esatto. normalmente che si può muovere dice: qua c'è una promozione in quel tal supermercato, mi muovo, prendo la macchina, vado e spendo meno e riesco a bilanciare quelle che sono esatto. i minori introiti o le maggiori tasse. Il disabile deve comunque andare sempre nello stesso posto, che per lui è più comodo, perché altrimenti non si può muovere. Esatto, deve andare sotto casa e non ha scelta, quindi dice: noi paghiamo già ampiamente la crisi perché non abbiamo scelta come le altre persone, quindi non toglieteci anche questi diritti. Sentiamo un attimo Francesco, resta in linea Eleonora, sì. così ti fai un minuto, un altro giro di orizzonte, ci raggiorni, sentiamo Francesco, un ascoltatore. Buongiorno. Ciao, ti chiamo per un problema che io ho avuto a livello familiare, nel senso, noi abbiamo un bambino autistico che ha fatto le elementari, adesso è passato le medie e praticamente ci sono state tolte le sovvenzioni relative all'insegnante di sostegno. Noi siamo una famiglia che tutto sommato sta bene, riusciamo, malgrado la crisi, ad andare avanti, a fare il nostro meglio, lavorando giorno e notte per far fronte alle cose, però sappiamo di tante altre situazioni molto difficili dove ci sono famiglie disperate per queste cose e mi domando lo Stato cosa fa, cosa pensa, cosa ha in testa. Conosco bene il problema, Francesco, verrà un giorno in cui quando tuo figlio crescerà e uscirà dalla scuola dell'obbligo dovrai porti il problema personalmente, perché un ragazzo autistico quando compie 18 anni, diventa maggiorenne, scompare, non è più nemmeno chiamato autistico, diventa un problema solo e unicamente tuo. Al momento la situazione è così. Marta. Eccomi, buongiorno. Sì. Prego, l'ascolto. Allora, io sono una direttrice di una clinica psichiatrica dove purtroppo casi del genere sono tantissimi. Queste persone che vengono ricoverate sono persone, alcune anche disabili, che hanno problemi a livello psichiatrico e sono totalmente abbandonate. Noi stiamo dando, non so se posso dire il nome della clinica dove lavoro, la clinica psichiatrica Clinica Mendicini, e sto adesso in effetti rivolgendomi, sto andando presso la clinica, che i nostri dipendenti, cioè i miei dipendenti... Sì, siamo in chiusura, dica velocemente qual è il nonostante, problema. Nonostante stiamo prendendo tutti metà stipendio, compresa me, stiamo offrendo tutti i servizi gratuiti perché non hanno possibilità, poveri amori. Cioè, adesso abbiamo chiuso, lei ci ha dato una testimone, anzi in conclusione di questa cosa, c'è una clinica dove a mezzo stipendio lavorano lo stesso. Ci fermiamo perché la sigla ci porta via. Grazie per ora, a domani.